Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt. C'è una novità che arriva dal mondo dei biocombustibili, molto importante, almeno insomma questa è la mia opinione. Parliamo del debutto mondiale su scala industriale dei biocombustibili di seconda generazione. Una volta tanto protagonista di questo primato sarà proprio l'Italia. Infatti a Vercelli, un'industria chimica italiana ben nota alla Mossi e Ghisolfi, sta costruendo il primo impianto industriale per la produzione di bioetanolo cellulosico, che sarà in grado di appunto produrre 45.000 tonnellate di bioetanolo l'anno, a partire da una specie di canna comune, la Rundodonax, che verrà coltivata da una filiera agricola locale sviluppata ad hoc. L'esordio industriale del bioetanolo di seconda generazione, dobbiamo ricordarlo, è un passaggio fondamentale e atteso da molto tempo, perché significa di fatto la fine della competizione tra agricoltura tradizionale, quella cioè dedicata all'alimentazione, e agricoltura a fini energetici. Abbiamo già parlato diverse volte di questo tema. Infatti per seconda generazione si intende proprio la capacità di produrre questo alcol, l'etanolo, che sostituisce la benzina, non dalla fermentazione di amidi e zuccheri che costituiscono la componente pregiata e soprattutto commestibile delle piante, ma a partire dalla cellulosa, che invece costituisce gran parte della massa vegetale e anzi, per la precisione, è il biopolimero più abbondante in natura. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa di più insieme a Giuseppe Fano, che è il portavoce di Mossi e Ghisolfi. Buonasera, Fano. Buonasera. Allora, direi come prima cosa che possiamo fare la conoscenza con questa pianta, la Rundodonax, che è un po' la protagonista, no, di questa, appunto, di tutta questa vicenda. Cos'ha di speciale? Ma la Rundodonax, tra le varie biomasse che noi potevamo individuare, è quella che consente di avere la miglior densità per ettaro, e quindi da un punto di vista di utilizzo del territorio è quella che consente di avere la maggior resa per unità di superficie. Quindi grande produttività, tanta cellulosa per metro quadro. Tanta cellulosa per metro quadro, questo si affianca un bassissimo necessità di input sia di acqua sia di fertilizzanti, che consente anche quindi di avere un approccio estremamente friendly all'ambiente, perché evidentemente non si tolgono risorse idriche alle altre coltivazioni e nello stesso tempo non si inquina apportando altri. Certo, e tra l'altro queste operazioni hanno un elevato costo energetico ed è il motivo per cui invece le colture intensive come il mais negli Stati Uniti non funzionano molto bene, perché alla fine si investe un sacco di energia per coltivare il mais e se ne tira fuori poca. Invece qui è il contrario, si investe pochissima energia. Questa, se non sbaglio, è una pianta infestante addirittura, cioè di per sé il problema di solito è tenerla sotto controllo. Rispetto al primo punto è perfetto quello che lei diceva, in tutto questo si valuta sul life cycle assessment, quindi sul periodo complessivo, tutta l'attività che dal seme al prodotto finale comporta, consuma energia e quindi produce CO2. La capacità di sequestro della nostra tecnologia è superiore al 70%, sia in termini di gas serra che in termini di CO2, quindi un'altissima capacità di sequestro. Per quello che concerne l'infestante, io direi che la Rundodonax, che poi è la nostra canna comune dei fossi, più che infestante è una pianta estremamente rustica, ovvero sia una pianta che si è adattata a vivere nelle circostanze più difficili, quindi anche in zone salmasse piuttosto che aride, e di conseguenza ha acquisito una sua resistenza alle difficoltà, a condizioni avverse, tanto è vero che cresce sui terreni marginali, quindi su terreni molto poveri, e poi anche una coltivazione pluriennale, la si pianta una volta, la si raccoglie tutti gli anni e la si ricambia ogni 10, se non sbaglio. Si ricambia ogni 10, la pianta è di per sé una pianta sterile, quindi non si riproduce per seme, messa a coltura con un'adeguata attenzione colturale, cosa che noi suggeriamo con un disciplinare ad hoc, non comporta nessun rischio di invasività, perché si riesce molto bene a confinarne il campo. Senta, come si trasforma in etanolo la Rundodonax? Ma per dirla in termini molto semplici, con un processo di pretrattamento che è una cottura a vapore, a pressione, che con dei tempi e delle temperature e delle pressioni calibrate in funzione della specie vegetale che viene utilizzata, perché noi parliamo del Rundodonax, ma in teoria si possono utilizzare tutti i residui dell'agricoltura, quindi tutte le paglie piuttosto che altre piante erbacee, comunque con un processo di cottura rende disponibile gli zuccheri che sono all'interno della pianta, quindi questi zuccheri poi vengono fermentati con dei lieviti, e questo è un normale processo di produzione di birra, sì. Tant'è vero che proprio tecnicamente e chimicamente si chiama la birra, con una gradazione alcolica tra l'8 e il 10%, 10%, che distillata consente di avere poi invece un alcol pressoché puro, che è quello che poi serve per poter fare uno splashing diretto con la benzina e quindi poterlo miscelare senza alcol. Certo. Quanto costerà l'etanolo così prodotto? Punto fondamentale. Questo è un punto fondamentale. Noi parliamo di un processo che non ha bisogno di sussidi e quindi viaggia in marcia con le sue gambe, consentirà di avere un etanolo, quindi un prodotto miscelabile con la benzina a costi che sono competitivi con la benzina, con i costi della benzina, badiamo bene, non con i prezzi della benzina, quando il barile è sui $60-70. Quindi attualmente abbiamo ancora dei margini di manovra. Attualmente il barile è intorno ai 100. Insomma, qui siamo di fronte a qualcosa che potrebbe veramente fare la differenza, cioè produrre dei biocombustibili compatibili dal punto di vista ambientale, sostenibili da quello economico, addirittura più economici di quelli derivati dal petrolio, per esempio se il petrolio rimane a $100 come oggi. A questo punto le prospettive sono amplissime. Voi che programmi avete, tanto per cominciare? Il mercato sicuramente è un mercato estremamente interessante. In Italia si consumano circa 40 milioni di tonnellate di carburante. Noi pensiamo che con un prodotto che ha queste caratteristiche una buona parte possa essere prodotta da biomasse. In questo momento noi ipotizziamo che almeno una decina di impianti di medio o grossa taglia, quindi 150-200 mila tonnellate, possono essere realizzabili in Italia senza un grosso impatto sul territorio e senza interferire con tutte le altre filiere. Dunque siete arrivati a questo risultato dopo circa 3 anni di ricerca e un investimento di oltre 100 milioni, circa 120. Avete ricevuto un supporto economico di qualche tipo dallo Stato, dall'Europa, non lo so? Sì, la ricerca è stata condotta con l'aiuto dell'Enea, con l'aiuto del Politecnico di Torino, con un contributo della Regione Piemonte che ha investito per circa un 10% dell'importo e con un grosso incoraggiamento da parte del Ministero dell'Ambiente. Un grosso incoraggiamento, va bene, abbiamo capito. Grazie Fano. Buongiorno. È tutto, domani parliamo di illuminazione pubblica, come farsela nuova a costo zero. Buona serata.